Però questo è l'agnello sacrificale della Pasqua. Ma cosa dici? Eh beh, il venerdì santo non puoi fare. Appunto, il venerdì. Allora... No, no, capo. Drago, l'hai detto? Hai detto? Siamo in Italia. Venerdì. No, siamo in Italia. Vabbè, allora facciamo The Saint Venerdì. Saint Venerdì, cos'è? Il santo protettore degli indigeni trovati sulle isole Saint deserte Venerdì. Dagli occidentali. No. Venerdì. Ora l'agnello sacrificato no, ma... sarà sacrificato in questo grande rito pagano del venerdì. Rito pagano. Drago, non ci pagano abbastanza. Cioè, voglio dire, ci pagano troppo. Ma no, ma non è, ma questa qua è, beh, è pura arte radiofonica. Sì, onesto, capo. È pura arte radiofonica. Quindi, l'arte radiofonica del 5 momenti. Capo, devo fare la manovra di Heisenberg, no, come si chiama? Rotlisberger. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Bentornati a venerdì. Saluto da Kappa, un saluto da Drago, però basta tutta sta cosa. Tocca onorare lo sponsor, dai. Madonna, ma dai, ma già ieri abbiamo mandato la mail di persona. Che c'entra, Wunderwaffer. Continuiamo a collaborare, quindi no. The show must go on. Ma che palle! Appunto, appunto. Ma cosa? Lo sai. Ponto cosa, allora, ponto. Dai, appunto, dai, vai. Che palle! Appunto. Appunto cosa? Lo sai. Dai. Dopo le palle di Mozart arrivano le palline di Wunderwaffer. Mm. Più buone e meno equivoche. Ma perché equivoche? Equivoche? Ma no, perché? Ma Drago, scusa, non hai mai riso per le palle di Mozart? No, non ci avevo mai pensato le palle. Vabbè. Il gusto si fa rotondo e divertente. Sgranocchia come uno scoiattolino felice le tue palline. Beh, l'immagine non è delle migliori. Però, ma stai attento, la Wunderball d'oro è in agguato. È una minaccia questa. No. Ma va, no, la Wunderball d'oro ti porta, dopo averti provocato la caduta dell'arcata dentale superiore, ma cosa frega, tanto prima o poi i denti li perdono tutti, bene, dicevo, ti porta tanta felicità. Ma è proprio d'oro? No, è dorata. Dentro è di piombo. Vabbè, allora, può fare da fermacarte almeno. Eh no, è una palla, non sta ferma, rotola. E allora è proprio inutile. È inutile! Goes a weasel, pop, pop, pop, goes a weasel, pop, pop, pop, goes a weasel, pop, goes a weasel. E ora, bambini, ricreazione! Bambino Alberto! Cosa c'è? Sono contenti di vederti. Come va? Appunto, ecco. Cosa c'è? Cos'è che hai? Vabbè, ma in generale va abbastanza bene. Se non fosse che mio padre... Se mio padre non fosse mio padre, vabbè, se tu non fossi, meglio, no? Se tu non fossi il bambino Alberto andrebbe meglio, forse per te. Però vabbè. Cosa c'è? Cosa è successo? Allora, no, sono ancora imbuffalito per una cosa, una giornata che mi ha fatto passare mio padre venerdì scorso. Vabbè, un incubo. Ti ha rovinato il venerdì. Sì, mi ha rovinato il venerdì. E come non mai? Faccio. No, no, e non per fare scene. No, no, chissà cosa è successo. Racconto, dai, poi, dai, dai. Almeno allora. Mi sfogo e butto fuori anche un po' di tossine. Sì. Voi avete presente, no? La maestra sexy, quella di Serravalle, no? Certo, è diventata famosa. Allora, il sogno di tutti. Tenete la mente. Mm? E che tornerà più tardi. Sì, dalla mente non ce la togliamo. Mettiamola lì da parte. Sì. Allora, giovedì sera. Sì. Mio padre a tavola dice: domani è venerdì. Dice: no, no, no, dice: no. Allora, domani è venerdì. Ecco, e tu, questo bambino Alberto, parlando in generale a mia madre, sì. Qui ha bisogno di rinnovare un po' il guardaroba. Quindi fa: domani ci prendiamo tutti un giorno libero. E domattina all'alba si parte per Serravalle. All'alba, scusa, no? All'alba. Ma Serravalle è praticamente a due passi da Milano, insomma. Un'ora, appunto! Un mezzo, insomma. Allora, se non mi interrompete, quindi ovviamente sveglia alle 5. Sì. Partenza alle 6. Mm. Alle 7 e mezza siamo a Serravalle. Un po' in anticipo. Quindi ci fermiamo in un bar davanti a una scuola elementare di un paese. Sì. E mio padre sta lì fuori a fumare, no? io mi vada nel bar senza consumazione. Ma venerdì poi tra l'altro tu hai saltato l'asilo per andare a Serravalle all'altro. Sì, adesso sei mio padre. Per gli acquisti. E tua madre non dice niente che siete lì alle 7:30 tranquilla. Va bene, chissà che mio padre è sempre appressivo e vuole sempre partire in anticipo per non rischiare. E poi lei era contenta, era la giornata di shopping. Sì. In un giorno feriale. Però eravate davanti alla scuola. In un bar davanti alla scuola, in attesa dell'outlet, no? Comunque alle 9, quando a scuola... Cioè, sono entrati tutti, no? Studenti, maestri, così. Non c'era più nessuno. Mio padre rientra nel bar, incazzato nero. Si beve un fernet e poi fa, oe, via, si va all'outlet. Alle 9. E mia madre, comunque, tutti eccitati, no? Perché, oe, stavo già pensando a cosa comprare. Eccitati. Mentre mio padre sembrava aver perso un po' di entusiasmo, no? La sera prima sembrava tutto... Adesso era arrivato il momento di tirar fuori i soldi, la carta di credito. No, pensavo anch'io che fosse per quello. Invece? Invece non lo so. Arriviamo all'outlet, no? Cominciamo a girare inutilmente, no? Ma inutilmente, ma senza concludere niente, essere sull'acquisto. Mio padre improvvisamente dice: mi sono ricordato che devo sbrigare una commissione qua vicino al mio lavoro. Vado un attimo lì. E poi fa: dai, vieni anche tu, bambino Alberto. Bello, insomma, non compri niente, però vai col papà. Per meglio che stare all'outlet, io avrei preferito. A lavorare, insomma, vai col papà a lavorare. Alla fine siamo tornati ancora davanti a questa scuola, no? E si vede che lì c'era l'interesse lavorativo di mio padre. E lì siamo rimasti 3 ore al bar, no? Senza consumare niente, no? 3 ore. Quindi ancora, ci guardavano un po' in cagnesco. Vabbè. Però siamo andati in toilette. Per forza. E lì al bar che tu parlavano, c'era quello del paese che parlavano tutti di una maestra sexy, no? Che io non so cosa vuol dire sta maestra sexy. No, una maestra, diciamo, che piace a tutti, sia ai bambini, sia ai genitori dei bambini, ai papà dei bambini, insomma. Infatti, molto popolare. Io non so perché, infatti, mio padre era interessatissimo, no? E ha cominciato a fare domande, no? Vabbè, forse si comincia a capire qualcosa di più su questa strana gita in anticipo allo shopping. Si era già capito da prima, eccetera. Proprio a Serravalle. Ma cosa c'è? Ma scusa, se l'outlet è a Serravalle. Ma l'outlet ce n'è tanti, non è che c'è solo Serravalle, è che a Serravalle c'è la maestra sexy. Ma basta questa maestra sexy. Come basta? Ma poi cosa c'entra? Siamo venuti qua per comprare Bermuda. Bermuda. C'entra. Comunque, fatto sta che la scuola alle 2 ha chiuso, no? Meno male. Non so per che motivo mio padre era... è fuori dalla grazia di Dio. Ma ci credo, 200 chilometri per vedere la maestra, che poi magari era in casa in malattia. Ma chi è malato? Ma niente, può darsi. Comunque, allora ci mettiamo in macchina con un'atmosfera funerea in strada per tornare all'outlet, no? Dopo 10 minuti di mutismo tesissimo, ci siamo fermati davanti a un centro di massaggio orientale, no? E tuo padre. E mio padre mi fa: aspetta un attimo, che c'ho qui un dolore alla cervicale che non mi fa dormire. Che è Bertolaso. Entra per farci fare un massaggio alla cervicale, no? Massaggio d'emergenza, perché... Emergenza di sicuro, insomma. Perché? Dai. Stai riprendendo... Dai, bambino Alberto, forza, allora, poi... Infatti... Ma in tutto ciò... Per provare... mio padre poi è uscito dal centro massaggi, che sembrava un papa, Da papà a papà, va bene. Un papa, tu l'ho rilassato, di buon umore, cioè erano anni che non lo vedevo così. Ma in tutto questo, tua mamma dov'era? E mia madre era ancora all'altro, no? Ci aspettava. Aspettava, un poverino. E lei non era tranquilla. Era nel parcheggio con una spranga in mano. Una spranga. Che inveiva contro mio padre. E vedi, vendono anche le spranghe. No, perché... All'altro, può darsi, sì. Sì, era... No, l'aveva divelta da, ma no, da qualche ma cosa. Perché era imbufalita per il ritardo, no? E poi perché mio padre aveva lasciato una carta di credito, no? Sì. Per fare gli acquisti. Allora... solo che era priva di disponibilità. Cos'era? E niente, non poteva fare. Era priva di disponibilità, no? Priva di disponibilità. È entrata dentro con un po' di scarpe, con le sue scarpe qua, che belle. Prego, signora, la carta. Signora, la sua carta è senza fondi. Ad alta voce, mia madre l'imbarazzo. Quindi figurati come era arrabbiata. Quindi non ha comprato niente neanche. State lì a aspettarvi. E poi anche quando è tornato mio padre. Dopo ne discutiamo, adesso andiamo dentro e compriamo qualcosa. E no, non ne ho più. E mio padre era speso tutti per il massaggio. Ma vabbè, e quindi alla fine... Alla cervicale. Alla fine, tanto per cambiare, hanno dato la colpa a me. Sì, perché io sono venuto qua per te, a prendere le tue Bermuda, che tu cresci e devi comprare la roba che ti va bene. Ma io non ho chiesto niente. Papà, giù! Qui ha tirato fuori la cintura di mia madre, dalla parte della fibbia, e giù, le botte. Cioè, alla fine, capito? Mio padre il massaggio, e io la cinghia, no? Venerdì Santo, Saint Friday. Buon Venerdì Santo a tutti, anche buona Pasqua, perché non ci saremo. Buona venerdì. Fino a Pasquetta noi non ci siamo, quindi. Pasquetta? Ma non ci siamo? No. Ah, weekend lungo? No, non ci siamo fino a Pasquetta. Cioè, la quindi, pasquetta vabbè, la facciamo qua? Eh sì. E allora almeno godiamoci questo verde. Dai, da domani in avanti potete mangiare il capretto, giusto? Oggi invece bisogna stare tutti leggeri. No, oggi dovete prendere. Io non so niente. Vabbè. Allora, buona Pasqua. Ballare. A chi? A Laura Faggin. Balla per noi. Carmelo Lauricello. Balla per noi. Pietro Lacorte. Balla per noi. Guido Bertolotti. Balla per noi. Salvatore Iorio. Balla per noi. Alberto Caserino. Balla per noi. Chiara Mignemi. Balla per noi. Niccolò Bodini. Balla per noi. Balla per... ballate tutti per noi. Energia. E domenica c'è la gara di cross country.